Afiate. Ce l'hai a magra. Con il flash. Oggi ci vuole il flash. Oltre alla macchina. Afiate. Ti piace. We'll be right back. take shit. We don't take no shit. We don't take shit. We don't take no shit. Latino. Con Thank you. ce l'hai grossa. Yeah. posso dormire sopra 18 guanciali e 18 materassi. Ho sognata. Al secondo e terzo. È nato prima l'uomo. È nato prima l'uomo. O la gallina. Thank you. no pensando en ti. Soy la luz de mis ojos y sonrisa. Y ahora tengo ti capire. Prima ti capire. Mi dico vai sotto braccio. A lei. We'll be right back. Fumando la foglia viva. foglia giunta. Bonsciata. Bonsciata. Bonsciva. le 5 kg. Vorrei essere più alta. Ai, come sarei bello! 5 kg di più e 10 cm più alto. Ah, come sarebbe bello! Questo è il mio problema. E vuoi comprare la Mercedes? Fai un leasing. Pagamento in 15 anni. A tasso zero. Notte, cosa ne pensate? Cosa vi aspettavate di più? I salti mortali? Le bacchette magiche? Se io potessi avere una bacchetta magica, pochi anni fa. Mamma anatra, due pulcini bianchi e un pulcino nero. Pulcino nero, peligro dai fratellini, però notavano insieme e notando il pulcino nero divenne bianco come un cigno. Pancia mia fatti capanna, che mangio oggi? Questo è un problema, sapere cosa si mangia oggi. Cosa hai mangiato? Era buona? Era dolce? Era amara? Come fai a sapere cos'è il dolce? Devi provare l'amaro. Quindi prima mare e poi sei bellissimo. Amore, ti voglio bene. We'll be right back.

The music was new, black, polished, and chrome, and came over the summer like liquid night. Thank you.